Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Buongiorno e benvenuti in un nuovo anno, 2019. Come vi suona questo numero? Perché da oggi sarà la vostra realtà per i prossimi 365 giorni e mi auguro anche la mia. Chissà che cosa ci porterà, che cosa ci regalerà, con che cosa ci confronterà. Ogni anno, il primo gennaio, noi ci svegliamo e ci troviamo un po' come sospesi. Intanto abbiamo ancora da smaltire i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Beh, però questo è un altro discorso, lasciamolo lì. Poi restiamo lì con un piede che ancora nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle, uno che invece sta già andando avanti verso il nuovo. Allora, chissà se anche in questa posizione anche Alberto Pellai, che è qui con noi per farci gli auguri e anche per accompagnarci nel nostro primo percorso emotivo del 2019, così mi abituo un po'. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, buon anno a tutti. E sì, mi trovi proprio qua sospeso, perché io con un piede sono ancora sembri nel 2018, una ballerina. E con l'altro invece sto già andando avanti, guardando avanti. Alberto, anche oggi noi abbiamo deciso di raccontare delle storie che hanno al proprio interno dei messaggi che ci servono oggi, in particolare oggi che vogliamo guardare avanti, per dare un'impronta un po' a ciò che ci aspetta. Quindi dalla storia qualche idea. Sì, noi siamo proprio, partiamo da questa evidenza che per noi psicoterapeuti ci chiamiamo anche costruttivisti, una parola difficile che però ha dentro un significato molto importante. Siamo noi che costruiamo il senso e il significato della nostra vita. E quindi in che direzione? Mi sembra che questo sia un messaggio importante da ricordare, soprattutto il primo dell'anno. Assolutamente sì. Quindi provate a mettervi proprio nella prospettiva di colui che guarda il bicchiere e lo trova mezzo pieno, perché se continuate a vederlo mezzo vuoto ve la raccontate in un altro modo e questa cosa probabilmente non è un grande vantaggio. Direi via tutte le ruminazioni, via tutta quella zona in cui diventiamo un po' vittime di noi stessi, perché produciamo autovittimizzazione. E secondo me le storie che abbiamo scelto oggi da condividere con voi vi servono proprio da tonico, da stimolo. Sono storie che aiutano ad alzare lo sguardo, sono storie che hanno dentro un po' anche il concetto di esemplarietà. È proprio importante avere degli esempi con cui ispirarsi e con cui confrontarsi, e quindi storie belle, veramente belle. Sarà proprio un viaggio incredibile. Infatti abbiamo scelto storie raccontate da persone che hanno davvero molto da dire, da testimoniare. Non sono dei supereroi, però oggi per noi è un po' come se lo fossero. Sono i nostri supereroi della puntata del primo gennaio 2019. E allora, per introdurvi il primo ospite, vogliamo farvi ascoltare come lui si racconta in un video che, pensate, su YouTube ha migliaia di visualizzazioni. Alberto ha una forza incredibile. Eh sì, è proprio una persona che quando lo vedi e lo ascolti lascia il segno. Sono cieco dalla nascita, nonostante questo fin da piccolo ho iniziato a fare sport, ho iniziato con l'acqua, nuotando, perché nell'acqua insomma non c'erano ostacoli, burroni o pericoli. E poi questo rapporto con l'acqua è continuato appunto con lo sci nautico, che è lo sport che da sempre faccio. Bello dello sci per me è che io mi sento molto più libero quando ho gli sci ai piedi rispetto a quando ho le scarpe da ginnastica. Ci sono dei momenti nella vita in cui la disabilità ti può mettere di fronte, no? La percezione di avere un limite, quantomeno di avere una diversità. Poi ho imparato piano piano che in realtà le nostre diversità sono anche i nostri punti di forza. Se tutti fossimo uguali sarebbe una noia mortale. Invece quello che inizialmente poteva essere un limite si è trasformato davvero in un trampolino di lancio. Così si racconta Daniele Cassioli, che abbiamo il piacere di avere in linea con noi per questa prima puntata del 2019. Daniele, grazie. Grazie a voi, non poteva esserci modo migliore per iniziare l'anno, quindi buon anno a tutti. Voilà, Alberto. Guarda, per chi conosce Daniele, io sono proprio un suo amico, è un incontro pazzesco quello con questo ragazzo. Io provo a darti anche qualche informazione, perché sì, uno dice Daniele Cassioli, non sa quanta roba c'è attaccata dentro a questo nome, a questo cognome. È uno sciatore nautico, è un fisioterapista, è cieco dalla nascita, ma ha conquistato 22 titoli mondiali, 25 titoli europei, 35 titoli italiani. In virtù dei risultati ottenuti a livello internazionale è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi, e ai mondiali del 2017 di Muna Bay ha realizzato il grande slam per la terza volta consecutiva. Daniele, sei un esagerato, lasciatelo dire. Sì, e soprattutto Daniele, tutte queste medaglie, già io se fossi tua mamma direi qua bisogna allargare casa, o tu o le medaglie. Perché, esatto. Comunque, bravo, complimenti, grazie, complimentissimi. Grazie. Tra l'altro, complimenti anche per la storia che hai raccontato in questo libro, che ci è piaciuto molto, è interessante e avvincente allo stesso tempo. Si intitola Vento Contro, pubblicato da De Agostini. E io, insieme ad Alberto, vorremmo proprio cominciare questa nostra chiacchierata con te proprio dal titolo che tu hai scelto per il tuo libro, Vento Contro. Però vi racconto tutto, perché sono due parole che, Alberto, si prestano a delle letture differenti, a più livelli, come dite voi psicoterapeuti. Allora, noi ci fermiamo. Daniele, fermati anche tu, che fermare un attimo, Daniele, non è come dirlo. Allora, fermiamoci, pausa, poi ritorniamo subito dopo insieme. Vento Contro. Perché queste due parole e che cosa ci servono queste due parole a inizio dell'anno? Pronti al nuovo anno? Saremo sempre qui a raccontarvelo. L'Europa al voto. La BCE che cambia. I campioni dello sport. Gli equilibri internazionali nel Mediterraneo e la Libia al voto. E poi cos'altro ci attende? Fatti, notizie, approfondimenti. A partire da subito per essere già pronti. L'anno che verrà, dopo il giornale radio delle 7 e delle 13, su Radio 24. Obiettivo salute. Caro sport, quello che adoro di te è il saper prendere qualsiasi individuo senza giudicarlo, senza sparare sentenze a priori. Tu fai posto a tutti tra le tue grandi braccia. Con te ognuno ha il diritto di mettere in mostra i propri talenti, le proprie qualità, senza aver paura di ciò che non ha e che non è. D'altronde sono le doti, i talenti che fanno di un individuo una persona compiuta. Anche un difetto così grande come la cecità, grazie a te, è stato completamente ridimensionato. Tant'è che quei due che si toccavano il gomito parlando a bassa voce ora si dicono: guarda, quello è il campione del mondo di sci nautico. Ecco perché ti sono così profondamente riconoscente. Il percorso accanto a te mi ha regalato autostima, amici, conoscenze e capacità di rispettare le regole, i dolori, la gioia e tanta consapevolezza. Il brano che abbiamo appena ascoltato è tratto da un libro di cui vogliamo parlare, perché siamo convinti che possa darci delle indicazioni, dei suggerimenti per iniziare l'anno di buon passo. Si intitola Vento Contro, è scritto da un amico di Alberto che è in linea con noi, è Daniele Cassioli. Ciao Daniele, ciao. Eccoci, ciao e ribuon anno a tutti. Daniele, io vorrei iniziare proprio dal titolo del libro, Vento Contro. A volte allora, sentiamo il vento contro. Sì, infatti il vento contro, il senso del titolo, che è il vento contro, è proprio questa sensazione di difficoltà che nella vita di ognuno di noi ci può essere. Per me è stata la cecità, che è un vento contro che ho dalla nascita, ma il vento contro per ognuno di noi può essere una storia d'amore finita, un lutto addirittura, una malattia, piuttosto che una qualsiasi cosa che percepiamo come una debolezza. E noi siamo molto bravi, no, a dire: se fossi stato più alto, se quella persona non mi avesse lasciato, se appunto non avessi questa malattia, nel mio caso se avessi visto, sarei diverso, no? Quindi come se la proiezione di noi in un'altra realtà per forza dovrebbe essere migliore, quando in realtà la cosa migliore siamo noi, è il nostro punto di partenza, e quindi a questo punto davvero questo vento contro può trasformarsi in un'opportunità, non diventa più qualcosa che ci frena, che ci ostacola, che ci rallenta, ma può essere quella spinta in più e l'occasione della vita. La mia vita ne è un po' un esempio, no? Se vedessi sicuramente non avrei fatto sci nautico, non avrei fatto un sacco di cose, quindi il bello è partire da ciò che siamo, volerci bene per quello che siamo, accettarci e lavorare su di noi. Homo faber fortune sue, Alberto, dicevano i latini. Che cosa ti ha colpito del libro di Daniele? Ma tu hai la fortuna anche di conoscere Daniele di persone, quindi... Ma io, pur conoscendo Daniele, leggendo il suo libro, ho scoperto un uomo diverso. A 360 gradi è un vero e proprio, è proprio un po' la storia della sua vita, ma è anche un trattato di resilienza. Ci fa esattamente vedere come deve essere abitata la vita, l'esistenza, con i doni che abbiamo, con le risorse che abbiamo, ma anche un po' con gli ostacoli, i vincoli che tutti, nessuno di noi ha delle vite perfette. Secondo me è un libro tremendamente umano, lo dico proprio con l'avverbio tremendamente, perché ha dentro tutto il bello e il brutto della vita, c'è questa bellezza anche che Daniele racconta, tutte le sue sfide dall'amore, dal fatto che ci sono amori che nascono, amori che finiscono, al fatto che deve litigare con il suo papà per andare a vivere da solo, ed è una roba che succede spessissimo anche a figli che non hanno per esempio il problema della cecità, e c'è proprio la vita di tutti raccontata nella prospettiva di Daniele, che è chiaramente un grandissimo campione a livello mondiale, con tutte le sfide della quotidianità. E quindi Daniele, tu lasci anche intuire quanto lavoro e quanto allenamento ci sia dietro anche ai traguardi, quanto conta la volontà, quanto il talento, quanto anche immagino le persone giuste, vicine, in un percorso come il tuo, che potrebbe essere come il nostro, perché tutti noi, come hai detto tu, siamo chiamati ad affrontare delle sfide, a cercare di superarle, a evitare, no, quell'atteggiamento così comodo di dire se, no? Sicuramente conta tanto, molte volte io per esempio vado tanto nelle scuole, no, a parlare con i ragazzi, e mi rendo conto di quanta volte la paura limiti il talento, e quindi il problema non è più la mancanza di talento, ma è la presenza della paura, quindi non faccio per paura di sbagliare. Solo che solo chi mangia fa le briciole, no? Bella, mi piace. Sto facendo, e io racconto nel libro proprio anche quanto in questo senso lo sport mi abbia aiutato. Io avevo un allenatore argentino che nel libro è descritto, che mi diceva: guarda Daniele, che se tu fai una sciata senza cadere praticamente non stai migliorando, stai facendo quello che già sapevi fare. Allora io dal giorno dopo ho iniziato a cadere apposta. Io dico, cado apposta, almeno lui pensa che... Sì. Ma lui se ne è accorto. Allora invece a quel punto poi ho capito il senso di quello che diceva, cioè l'errore fa parte della crescita. Il libro si apre con una sconfitta, proprio perché la gestione di una sconfitta, di un errore, cioè l'errore deve essere accolto, abbracciato e accettato. E a quel punto ne saremo fieri anche dei nostri errori, e l'errore non sarà più quella cosa che ci impedisce di esprimere. E a me, vi assicuro, è capitato tante volte, perché no, lui è cieco, questo non lo può fare, lui è cieco, quell'altro non lo può fare, oppure come fai tu, ragazza, a stare con uno che è cieco? Quindi quella paura spesso ha limitato anche me stesso, perché poi a furia di sentirti dire delle cose dagli altri ci credi, di crederci in tante situazioni. Ecco, il senso del libro, un po' anche della mia vita in generale, è proprio questo aspetto qui, cioè bisogna anche essere fieri di sbagliare, perché solo tramite il fare, e quindi anche tramite lo sbagliare, che possiamo veramente trovare noi stessi a partire da ciò che siamo. Quanto è stato difficile raccontarti in un libro? Perché credo che sia un'operazione abbastanza complicata, complessa, sì. Anzi, vicino Alberto, sai che con gli psicoterapeuti bisogna calibrare bene le parole. Guarda, ho fatto un patto con me stesso, è stato proprio quello di dire: ok, se lo vuoi fare lo fai davvero, e a quel punto ti spogli un pochettino, ti spogli veramente e ti metti anche in gioco, perché poi tu metti delle parole in fila e poi ognuno le interpreta, gli dà una chiave di lettura, quindi è anche un grande mettersi in gioco fare un libro. Certo. Però per me è stato un grande è stato un altro modo per conoscere me stesso, anche perché il libro ha un percorso molto lungo. Io avevo da tempo in mente, poi abbiamo incontrato De Agostini e quindi il libro è diventato reale, ma tante delle cose le ho scritte tempo fa, e nel rileggerle queste cose le ho poi magari modificate, le ho un po' come dire aggiustate, e quindi mi sono sorpreso e mi sono anche, diciamo così, divertito nel vedere come anche i miei stessi occhi, diciamo così, nel leggere nuovamente una cosa che avevo scritto tempo fa, erano cambiati, cioè come io certe cose. Ecco, magari... io credo proprio, Alberto, che Daniele ci sta suggerendo questo, poi tu ci racconterai anche qual è il messaggio forte che vogliamo prendere dal libro, ma rivedere un po' quello che è stata la nostra storia, come ha fatto Daniele col progetto del libro, può essere utile. Non è facile, però io credo che oggi potrebbe, se non oggi, almeno domani, all'inizio dell'anno, potrebbe essere utile fare questo percorso all'indietro. Sì. È sempre una buona indicazione quella di provare a mettere nero su bianco passaggi, pezzi, se non per intero la storia della propria vita. C'è proprio un'università dell'autobiografia a Anghiari che insegna proprio a trasformare in una storia compiuta, in una narrazione compiuta, le vicende della propria vita. E credo che in questo momento, poi, in particolare, dove noi siamo costantemente abituati a buttare nel fuori, soprattutto dentro i social, milioni di frammenti che sono proprio buttati lì nell'estemporaneità, spesso non elaborati, non gestiti, non caricati di significati, buttati. Ecco, invece rigenerare attraverso un filo rosso, il filo rosso della narrazione, la costruzione dei significati di quello che ci succede, è decisamente un grande vantaggio. E effettivamente si vede questo lavoro proprio molto preciso nel libro di Daniele, di rigenerarsi, rivedersi, ristrutturarsi nella narrazione di se stesso all'interno di Controvento, di Vento Contro. Vento Contro, Controvento. Mica male, vedi, un lapsus. Daniele, hai sentito anche tu, chissà mai, magari il titolo di un nuovo libro di Alberto Pellai, scritto a quattro mani con Daniele. Qual è il messaggio che per il nuovo anno, che chi ci sta ascoltando può portarsi a casa leggendo il libro di Daniele? Ma il libro di Daniele è proprio la storia di una vita esemplare, nel senso che non nasconde niente delle sue fatiche, delle sue sconfitte, delle sue rinunce, ma allo stesso tempo tu hai la percezione di uno che ogni giorno costruisce la sua vita, non spreca nulla. Hai anche questa bellezza che lui ti fa vedere che non puoi fare niente da solo, nel senso che il suo successo è il risultato proprio anche dell'impegno di tantissime persone. Ci sono delle sottolineature, delle pennellate meravigliose in cui ci fa vedere che mamma e che papà ci sono stati al suo fianco, e devo dire che è veramente un libro ispirazionale. Allora, noi ci fermiamo, Daniele resta con noi, perché ne sentiremo ancora un breve estratto, perché ci aiuta, attiva dei pensieri, ci aiuta a ingranare la marcia, a vedere che possiamo farcela. Soprattutto, Alberto, tu hai detto nel libro di Daniele, lui non nasconde nulla, gli insuccessi, le paure, le difficoltà. Spesso a raccontare le cose che stiamo vivendo ad un'altra persona ci sentiamo sollevati. Può essere un'indicazione? Sempre, condividere è proprio la base. E poi è il lavoro del terapeuta. Certo, no? Allora condividete, restate con noi a tra poco, insieme a Daniele e ad Alberto Pellai. Dibidi dobidi dab, buone feste! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. Ah, certo, non costi niente e mi fai ascoltare le radio che amo con il suono perfetto. E in più, fra pochi mesi sarò in tutte le auto nuove. Festeggia anche tu l'arrivo ufficiale della Digital Radio. Se stai per comprare un'auto, pretendila con il sistema DAB Plus dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Obiettivo salute. Ho imparato quanto sia importante apprezzare me stesso per poter amare gli altri. Ho imparato che affrontare la paura a viso aperto, come quando si corre nel temporale senza un riparo, è una delle cose più genuine che si possano fare. Ho imparato che scrivere è un modo fantastico per guardarsi dentro. Ho cercato di andare d'accordo con tutti, dispensando sorrisi e serenità, ma ho capito che non posso piacere a tutti, perché non tutti hanno bisogno di quello. Ho imparato che prendere il buono delle persone è sempre un'arma vincente. Ho imparato che un giorno in viaggio equivale a un mese di crescita. Ho imparato che ognuno di noi diventa un essere speciale quando persegue la propria missione su questa terra. Il problema a volte è capire in tempo la propria vocazione più profonda. Ho capito che una stretta di mano o un abbraccio valgono molto più di 1000 parole, 100 telefonate o 1000 messaggi. Questa è la porzione del mio bagaglio che ho già riempito, ma sono felice al pensiero di avere ancora infinito spazio per spostare o cambiare valori, vivere emozioni e affetti di questa vita. Un dono troppo prezioso per non amarlo ogni istante. Che avete appena ascoltato un breve passaggio del libro di Daniele Cassioli, che è in linea con noi insieme ad Alberto Pellai. Daniele ha scritto un libro da cui prendiamo spunto, si intitola, già il titolo ce la racconta lunga, Vento Contro. Prendiamo spunto per dire: stiamo affrontando un nuovo anno, Alberto, abbiamo un anno davanti, un anno ci saranno tante sfide, tanti momenti sì, tanti momenti di no, possiamo dire ce la faremo? Dobbiamo dirlo assolutamente, perché poi questo è il dato di fatto, ce la faremo. Allora Daniele, proprio anche alla luce delle bellissime parole che abbiamo appena ascoltato, tu ai nostri ascoltatori che si sentono in questo momento particolarmente sfidati dalla vita per molti più diversi motivi, cosa ti senti di dire? Tante cose bisognerebbe dire. Io quello che penso, la cosa che almeno a me ha aiutato a convivere prima e a superare poi la mia cecità, è quella intanto di volerci bene così come siamo, che per me è stato difficile, perché ero quello difettoso a scuola, ero l'unico che c'aveva sta menata, diciamo così, della cecità, e quindi l'accettarsi, volersi bene così come si è il primo passo. Quando tu a qualcuno vuoi bene o a qualcosa vuoi bene, la tratti con un riguardo maggiore. È vero. La tratti con più amore. Ecco, trattiamoci con amore, perché siamo, cioè è da noi che la rivoluzione parte, se vogliamo che parta una rivoluzione. E poi un'altra cosa importante è farci sempre, come dicevate prima, conoscersi, cioè a volte noi non ci conosciamo, e quindi conoscersi passa attraverso il farsi delle domande, per esempio il rapporto con la paura, no? A volte la paura la trattiamo un po' come quel vicino di porta, no? Il vicino di casa che tu lo vedi uscire la mattina, poi lo vedi magari la sera, lo incontri in ascensore, ma non sai niente di lui. Ecco, il nostro rapporto con la paura, con le nostre paure, a volte è questo qui, la trattiamo un po' come quel vicino di casa con cui non parli mai, sai solo che c'è. Però la paura è una nostra creazione e come tale merita di essere conosciuta. Quindi io, vabbè, la paura del buio è l'unica che non ho mai avuto, ma vi assicuro che le altre le hai sperimentate. Le ho sperimentate come? E l'unico modo per andare dentro queste paure è farci delle domande. Cioè, da dove arriva questa paura? Deriva dall'educazione, deriva dall'esperienza di qualcun altro, deriva da una ferita ancora aperta. Quindi non rinunciare mai alla conoscenza di noi stessi ed essere sempre curiosi davanti a una paura, davanti a un qualcosa che ci, a una resistenza, a un qualcosa che ci, diciamo così, ci frena, appunto, a questo vento contro. Se questo vento contro, come dice la pancia del libro, se hai voglia di guardare oltre e quindi di essere curioso della conoscenza di te stesso, poi tutto veramente diventa possibile. Alberto, bisogna Daniele, io non so Alberto Pellai, chiamerò lui. Sì, te lo dico, credo che mi ha rubato nel 2019 chiamo solo Daniele, è altro che io stimo tantissimo Alberto e lo seguo molto, quindi magari facciamo qualcosa insieme. Dai, fate qualcosa insieme, vi prendo in coppia, così inauguro già con il nuovo anno. Tu tra l'altro, a differenza di Alberto che è medico, è scrittore, è psicoterapeuta, tu sei anche fisioterapista, oltre che campione e scrittore, perché hai un rapporto quindi molto diretto con le persone e il corpo. E tra l'altro a me piace raccontare al volo questa cosa qua, perché la prima università alla quale io mi ero rivolto per far fisioterapia mi ha detto: guarda, sei carino, sei simpatico, sei intelligente, ma chi non vede non può fare fisioterapia, non puoi sostenere degli esami che sono a video. Poi sono andato in un'altra università dove invece non è che mi hanno detto: ah, che fortuna che un cieco vuole fare fisioterapia. Però no. All'Insubria di Varese sono stati molto molto bravi e molto sensibili e mi hanno portato a termine del percorso. Quindi questo vento contro io l'ho avuto spesso, no? Ed è pazzesco pensare come magari il pensiero di un altro mi avrebbe cambiato la vita. Cioè, non avrei fatto il fisioterapista, avrei fatto qualcos'altro e tutto quanto. Quindi anche lì proprio il fatto di sapere che la strada che stiamo percorrendo è nostra, a me ha permesso di diventare fisioterapista. A quel punto poi c'è tutto un rapporto, è tutta una discesa che non so se posso dirlo a te, perché chissà quale altro sport ti, perché no, sei un attimo, è un attimo che premi, prendi alla lettera. Alberto, anche se il vento è contro, perché ci sarà nel 2019 un po' di vento contro, non possiamo mica avere sempre il sole. Assolutamente no. Noi siamo naturalmente attrezzati. Assolutamente sì, e credo che abbiamo preso un bel po' di appunti di saper essere e di saper vivere dal nostro Daniele Cassioli. Daniele, vieni qua una volta, che ti invito insieme ad Alberto, che lo lasci volentieri, senza parole. Volentieri, molto. Poi lui è così tronfio, quando tu parlavi era così soddisfatto. Bello, mi fa piacere. Ma questo è proprio quel segno dell'amico che è soddisfatto di quanto è bravo l'amico, Alberto. È così, tu, no, ma lui così. Anche se io non fossi stato così soddisfatto, era così. Lui era comunque però bravo. Io non so se è quella faccetta quando parlo io, non lo so, adesso ti guarderò. Grazie, un abbraccio grande e forte, grazie, ti aspettiamo voi, qua. Buon anno a tutti, con il vento contro, se guardate oltre tutto è possibile. A presto, un abbraccio forte. Anche a te. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, solo per farti guardare. Come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare per farti guardare. Con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola, ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. La starete sicuramente cantando tutti, Alba Chiara di Vasco Rossi, una canzone che all'inizio dell'anno contiene in sé il messaggio forte legato a qualcosa che sta per cominciare, ma in questa canzone c'è anche il nome di una bambina, Alba, di cui, Alberto, oggi vogliamo raccontare la storia. Alberto. Sì, è una storia che ha davvero fatto pensare l'Italia, ha fatto discutere l'Italia, fatto riflettere l'Italia, ha fatto emozionare l'Italia. È una storia raccontata in un libro bellissimo, guarda, il titolo per me è inimitabile, Nata per te, storia di Alba, raccontata da Luca Trapanese e da Luca Mercadante, insieme, due opposti che si sono uniti in una narrazione. Luca Trapanese però è il papà di Alba ed è bellissimo averlo con noi. Ciao Luca! Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, auguri e buon anno. Luca, grazie. Intanto chi è Alba? Alba è mia figlia, è una bimba bellissima di 18 mesi con la sindrome di Down che io ho adottato a luglio dello scorso anno. E se ti chiedessi, Luca, chi è Luca? E Luca è il papà di Alba. E, niente, era un uomo che aveva un fortissimo desiderio di paternità e che non aveva una consapevolezza di voler esprimere questo desiderio nella scelta di un figlio disabile. Quindi, nonostante io sono single e non posso accedere a liste per le adozioni, se avessi potuto avrei comunque scelto un figlio disabile. Alberto ha sottolineato che il titolo del libro che hai scritto insieme a Luca Mercadante, Nata per te, è già un titolo che ha una forza emotiva straordinaria. Alberto. Sì, perché la storia di Alba è la storia di una bambina che in realtà è stata proposta in affido adozione a moltissime coppie e nessuno l'ha accettata ed è bellissima la storia che viene raccontata nel libro, e a me piace questo titolo perché c'è davvero il rispetto dell'identità di questa bambina, una bambina che non nasce per tutto il mondo, per chi la prende, intanto nasce per se stessa, e ci sono delle parole. Uno pensa che è un libro sulla paternità ed è vero, uno pensa che è un libro su un genitore singolo omosessuale che decide di adottare ed è vero, ma questo è proprio un libro anche sul fatto che quello che noi chiamiamo disabilità è semplicemente un essere come si è ed è una cosa meravigliosa. Allora adesso Luca, adesso intanto noi siamo insieme, abbiamo inserito la vostra storia, il vostro libro in questa puntata di primo dell'anno, da cui proprio dalle storie vogliamo prendere dei messaggi che ci aiutano a vedere il nostro presente che ci porta al futuro con una nuova luce, magari riscoprendo delle parti di noi che abbiamo lasciato in ombra e anche accettando quelle parti di noi che non ci piacciono, con cui dobbiamo ancora fare pace. Adesso noi ci fermiamo, poi riprendiamo subito dopo insieme, io ve lo già anticipo, riapriremo con un breve estratto dal libro Nata per te. Dibidi dobidi dab, buone feste! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. Ah, certo, non costi niente e mi fai ascoltare le radio che amo con il suono perfetto. E in più, fra pochi mesi sarò in tutte le auto nuove. Festeggia anche tu l'arrivo ufficiale della Digital Radio. Se stai per comprare un'auto, pretendila con il sistema DAB Plus dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Obiettivo salute. Vedrai, mi dice, Alba è un dono, proprio per com'è. Tipico dei cattolici chiamare dono una malattia altrui, dico. E subito mi mordo la lingua per aver detto malattia riferito alla trisomia. Tipico dei cinici scambiare la diversità per deformità, mi risponde senza perdonare il mio errore. E perché mai dovrebbe? Ho deciso di far scrivere a te la mia storia, dice dopo avermi dato il tempo di assorbire il colpo, proprio per come la pensi. E da amico ti dico, stai in guardia, perché quella lì, mia figlia, è nata per cambiare la vita di tutti quelli che le si avvicinano. Presto o tardi lo farà anche con te. Riprendiamo, come promesso, con un breve estratto che abbiamo appena ascoltato dal libro Nata per te, che abbiamo inserito in questo nostro percorso del primo gennaio, Alberto, perché abbiamo cercato di selezionare storie e persone che ci aiutano a guardare avanti. Quindi la storia di Luca Trapanese è una storia che ha colpito, di cui ha parlato l'Italia, ma da cui noi che cosa raccogliamo? Ma guarda, è davvero una storia che fa alzare lo sguardo, è una storia che va oltre tutti i comuni, i luoghi comuni, i comuni modi di pensare, proprio a pensare a se stessi come uomini e donne, come genitori, come madri e come padri, pensare a se stessi come figli, pensare a se stessi come abitanti e come cittadini di questa nazione. Ci invita a non essere piccoli, sì, a non essere meschinelli, Luca. Sì. Ecco. È vero, soprattutto la nostra storia, e per questo noi abbiamo deciso di raccontarla, è una storia che può essere ripetuta, io spero, che non è una storia unica, ma che può aprire le porte a tante altre persone. Per me Alba non è una bambina disabile, ma è una bambina con un modo di vita diversa, ma che tranquillamente può essere una bambina come tutte le altre. L'importante è abbattere, diciamo così, i pregiudizi della diversità e di vedere appunto che la diversità è risorsa e non è qualcosa da temere o da tenere lontano, di cui avere paura o da cui prendere le distanze. C'è un brano, tra l'altro, che ci ha davvero colpito tanto, che vi vogliamo far sentire. Qualcuno pensa, in maniera colpevolmente semplicistica, di trattare la disabilità come una malattia e quindi di risolverla cercando una cura. Ma la trisomia è un modo d'essere, non una malattia. Altri credono che la soluzione sia intervenire sulle nascite per diminuire il numero, che sarebbe come se, per risolvere il problema della povertà, si decidesse di uccidere chi è sotto una determinata fascia di reddito. Questo è quello che penso. E non è il frutto del mio essere genitore di una bambina trisomica, ma di più di 10 anni di lavoro in questo settore. E se avessi un desiderio da esprimere, non eliminerei la disabilità, ma ne donerei una ad ogni famiglia. Luca, lasciaci dire che queste sono parole fortissime, che ci arrivano quasi come un pugno nello stomaco, al centro, proprio lì, della nostra pancia, ma anche al centro della nostra vita e al centro del nostro cuore. Eppure sono proprio parole che uno come te, che da sempre vive e lavora a fianco dei disabili, può dirci per farci pensare e certamente anche per sfidare i luoghi comuni, false credenze, stereotipi. In questo primo giorno dell'anno forse è meglio toglierci questo zaino che è pieno di tutte queste cose, questi pregiudizi, tutti questi pensieri che ci fermano. Sì, in effetti è quello il problema, il fatto che la disabilità venga vista come qualcosa che fa paura, che è un problema dell'altro, che fondamentalmente di solito chi vede la persona disabile dice: pensa, meno male che non è successo a me o che non è capitato nella mia famiglia. Mentre purtroppo la disabilità deve essere vista come una diversità che parliamo di persone, soprattutto disabili, sono persone con sentimenti, con una, certo, voglia di vivere, con tantissimi problemi di integrazione, di socializzazione. Quindi io quando dico ci vorrebbe un disabile in famiglia, non è una maledizione che mando alle famiglie, ma perché bisognerebbe avere più consapevolezza rispetto a quella condizione, e se tutti sapessero che cos'è la disabilità, forse saremmo anche più predisposti. Quanto ha cambiato, Alba, la tua vita? Beh, Alba ha cambiato la mia vita come cambia la vita a un figlio, a un padre o a una madre. È chiaro, l'ha cambiata nel senso che io non sono più libero mentalmente, cioè mi sveglio la mattina pensando ad Alba e penso a come dovrò essere come padre, a come aiutarla a sentirla, farla sentire libera, ad esprimersi, certo, ad essere se stessa. Alberto, nata per te, certo, ed è quello che volevi, nata per te. Luca, prova un po' a raccontarci anche che reazioni ha suscitato e ha generato la tua storia, la storia di te con Alba, come il pubblico che per esempio incontrate quando presentate il vostro libro reagisce alla vostra vicenda, che cosa vi è piaciuto tanto nelle reazioni delle persone, che cosa invece vi ha disorientato o per esempio non vi è piaciuto per niente? Allora, in questo momento le reazioni fino ad oggi sono state tutte estremamente positive. È chiaro che c'è la storia della bimba che nessuno voleva e che trova una casa, è una storia che colpisce. I momenti più belli sono i momenti di quando incontro i genitori con i figli con la sindrome di Down, che ne vengono tantissimi ad ascoltare la mia storia, a leggere alle presentazioni, e loro mi dicono che io sono diventato una voce e che finalmente c'è qualcuno che parla della sindrome di Down, che la sa spiegare, perché la sindrome di Down non è una malattia ma è una condizione. I bambini con la sindrome di Down possono avere una vita tendenzialmente normale, felice e piena di tante cose, e quindi è molto bello il confronto con le mamme, con i papà, con i ragazzi, perché è chiaro che c'è qualcuno che si interessa a questo argomento che fino ad oggi insomma non è sempre trattato nella maniera giusta. Forse perché non si conosce a sufficienza, non si hanno le parole, si pensa di ferire, c'è quella curiosità che nasce da una mancanza proprio di conoscenza, di informazione. Buon anno a te Luca, buon anno alla tua dolcissima Alba, grazie, che sia buon anno. Un anno grazie. In cui possiate raccogliere delle cose belle, perché stai grazie. Facendo un percorso straordinario. Grazie, un abbraccio. Grazie a tutti, buon anno, ciao. Allora Alberto, adesso ti faccio ascoltare un pezzetto di un brano musicale che non abbiamo scelto a caso. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui. Questo momento passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità. Beh, Alberto, era perfetto, è perfetto l'anno che verrà. Esatto, è proprio l'anno con il brano con cui noi riguardiamo al futuro, un brano che possiamo anche riraccontare sotto forma di proprio storia e narrazione. Proprio così, perché come abbiamo fatto con i libri di Daniele Cassioli e Luca Trapanese, noi oggi vogliamo prendere anche un messaggio dal tuo nuovo libro che ha a che fare anche con la canzone del grande Lucio che abbiamo appena ascoltato. Spiegaci tu, Alberto. È proprio un modo di guardare in avanti. C'è un uomo che scrive al proprio amico che fondamentalmente gli dice: chissà, so quello che è successo nell'anno passato, sto immaginando quello che succederà e fra un anno ci troveremo di nuovo qua a riguardare quello che è stato e a riaspettare quello che sarà. È l'ultimo giorno dell'anno. Un uomo scrive una lettera al suo migliore amico che vive lontano e non è aggiornato sulle ultime novità. Chi scrive ha il cuore pesante. Quello appena terminato è stato un anno difficile. La gente ha avuto molta paura e si è rinchiusa in casa. In giro per le strade non c'era quasi nessuno. Ci si è sentiti soli e persi. Ma l'uomo è ottimista. È convinto di potersi finalmente lasciare tutto questo alle spalle. E attende con fiducia, come tutti, i cambiamenti che l'anno nuovo porterà. La televisione dice che la strada è tutta in discesa, ora. Ci sarà ricchezza, accadranno cose belle e mai viste. Qualcuno afferma che il prossimo sarà l'anno dei miracoli. Le persone semplici trionferanno, mentre i malviventi, i furbi e i corrotti faranno una brutta fine. «Dici che sto esagerando?» scrive all'amico. «Io ci voglio credere, amico mio». Il meglio deve ancora venire. Tra un anno ti scriverò di nuovo e vedremo. Un altro anno sarà volato via più veloce del vento e io lo avrò vissuto, dal primo all'ultimo giorno, sperando fino alla fine, intensamente, che tutto vada meglio. E insieme ai miei auguri, in questa lettera, ti invio la mia stessa speranza. Ti voglio bene, caro amico. Credi nel futuro. Alberto, e chissà se ci saremo anche noi fra un anno qui a raccontarci com'è andato l'anno? Speriamo proprio di sì. Beh, qualche indicazione per affrontare il 2019 ce l'abbiamo. Riprendiamo con delle parole chiave. Da Daniele Cassioli abbiamo imparato che può arrivare anche il vento contro, ma... Ma coraggio, resilienza, impegno, volontà e soprattutto credere in se stessi e amare se stessi. Per il lì con il libro di Luca Trapanese, con questa bella storia, il titolo lo ricordiamo, Nata per te. Direi alzare lo sguardo e imparare ad andare oltre. E il grande Lucio che ci dà sempre un insegnamento. Arriverà, ci sarà l'anno che verrà, abbiamo vissuto un anno, rivivremo nell'anno che verrà molte nuove cose e ce le riracconteremo esattamente fra un anno come le cose che sono state, che ci hanno fatto diventare quello che siamo e saremo nel 2019. E intanto compiti, perché li diamo anche al primo dell'anno, riguardiamo la nostra storia. E magari cominciamo a tenere un diario. Perché no? E chissà mai che sarete invitati il prossimo anno, il primo di gennaio, a raccontare la vostra storia qui a Radio 24. Auguri, buon anno, buon 2019 dalla vostra salutare ossessione quotidiana. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buon anno a tutti.